Siamo con il professor Giovanni Spagnoletti che coordina il laboratorio di scrittura creativa all'interno della decima rassegna Il Vento del Nord a Lampedusa dal 26 luglio al 4 agosto. Giovanni, ben trovato. Federico, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come negli anni precedenti abbiamo organizzato insieme con la SIAE un laboratorio di scrittura creativa che è dedicato ai ragazzi liceali e soprattutto a quelli del liceo scientifico di Lampedusa per dargli l'occasione di accostarsi proprio a questo aspetto fondamentale che è quello del cinema e quindi della scrittura per il cinema. Abbiamo preparato due brevi interventi che verranno presentati in video, uno di Andrea Purgatori, che come è noto è particolarmente attento ai temi del cinema, autore di denunzia ed impegno politico, e l'altro di Paola Mammini, che tra l'altro è diventata famosa per un film che ha avuto un grande successo internazionale, che è Perfetti Sconosciuti. I ragazzi dovranno giudicare, abbiamo selezionato quattro film, opere prime e seconde di tutto il programma di Lampedusa, quattro lungometraggi e un cortometraggio che è The Millionaires di Claudio Santamaria, come campione su cui loro possono esercitarsi alla fine di questa, della visione di questi film. Quindi i ragazzi vedranno, oltre al programma ovvio del festival nel suo complesso, anche in particolare Chi l'ha visto, Chi m'ha visto di Alessandro Ponti, Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, 9 lune e mezzo di Michele Andreozzi, che tra l'altro sarà ospite del festival, e Sconnessi di Cristian Marazzitti. E su questo loro cercheranno, noi con diciamo una serie di interventi cerchiamo e facciamo in modo che si avvicinino a una realtà come quella del cinema, che notoriamente qui a Lampedusa è stata, diciamo così, non c'è una sala fissa, non c'è una proiezione regolare e compagnia bella, quindi è un'occasione sia per gli abitanti dell'isola che per i turisti di recuperare una serie di opere importanti del cinema italiano. L'idea appunto è di concentrarsi sulla sceneggiatura e appunto su questo momento fondamentale del meccanismo cinematografico. Giovanni, se non sbaglio, è cominciato ieri. Con quanti ragazzi e ragazze hai a che fare? Allora, abbiamo fatto una selezione, sono 7 persone, 7 ragazzi appunto, come detto, del liceo scientifico, ma anche non solo del liceo scientifico di Lampedusa, sono tutti studenti della scuola media superiore, e con loro stiamo cominciando a lavorare. Loro si vedono i film, dopodiché discutono, noi interveniamo dandogli, come dire, quelle informazioni fondamentali che possono aiutarli a giudicare meglio, senza ovviamente influenzarli, perché poi l'aspetto bello di questa iniziativa è appunto quella della spontaneità, e ti garantisco che l'anno scorso sono stati veramente molto bravi, hanno lavorato in una maniera straordinaria, appassionata, una passione che talvolta nelle grandi città non c'è più. Invece, voglio dire, qui nel questo lembo di terra lontano, italiano, praticamente africano, invece trova ancora un grande vigore. Questo ovviamente ci fa molto piacere. Giovanni, che possibili prospettive può aprire un'avventura del genere? Destare curiosità per un mestiere che magari è lontano dalla tradizione qui della zona, un modo anche per aprire delle finestre. Il cinema è sempre stato pensato come una finestra sul mondo, anche di fiction, anche i film maggiori di fiction, e quindi noi non facciamo un corso professionalizzante, tra virgolette, cerchiamo invece di captare creatività e stimolare questa creatività che poi magari questi ragazzi metteranno a frutto successivamente. Sì. È una, come dire, è un investimento in un paese come il nostro che fa scarso investimento sul futuro, è un piccolissimo investimento sul futuro per fare in modo che, insomma, questo grande mestiere che è il cinema italiano è sempre stato uno dei più importanti cinema al mondo, possa, come dire, continuare anche tramite queste piccole iniziative, perché poi il cinema è anche un modo per discutere la vita, i problemi della vita, anche tramite commedie leggere, l'intrattenimento, come dire, più semplice, ma anche più stimolante sotto certi aspetti, no? Quindi noi mischiamo un programma in cui c'è un film d'autore, cortometraggi e soprattutto quelle che sono alcune delle opere più significative di commedia che sono passate durante l'anno. Per esempio nella serata finale faremo vedere insieme Amore e Malavita dei Manetti Bros e Italia sotto le stelle appunto di Paolo Virzì, diciamo così. Ma passando appunto per tanti altri film di Luca Miniero, di Genovese, di Gabriele Muccino, di Alessandro Gassman, insomma, voglio dire, un po'. Stasera avremo come ospite Terence Hill, con il mio nome Thomas, insomma, in qualche maniera ci danno tutti una mano, per fare una piccola manifestazione, ma manifestazione che vuole lasciare un segno, su quest'isola, così bella e così, come dire, discussa. Ecco Giovanni, proprio a questo proposito, citavi prima la scorsa edizione, per te è almeno il secondo anno. Più in generale, com'è la risposta della gente, dell'isola? Io ci sono stato sino dal primo Ah, anno, ok. a collaborare, quindi la risposta è una risposta sempre, come dire, ottima da parte la sala l'ha aperto in fondo alla mainstream di Lampedusa, è sempre piena la sera, quindi noi siamo molto soddisfatti. Ieri sera abbiamo avuto una serata molto affollata con i bambini, con il cinema dei bambini, facendo vedere i primitivi e via dicendo. Insomma, voglio dire, qui la crisi del cinema non si vede, ecco. Siamo contenti di poter contribuire al fatto che il cinema aiuta anche, come dire, l'economia e la gradevolezza di un soggiorno turistico. Bene, vedo che c'è anche la pagina Facebook di riferimento. A questo punto ricordiamo il laboratorio di scrittura creativa coordinato dal professor Giovanni Spagnoletti, Insieme a Laura Delli Colli, insieme a Laura Delli ricordiamolo. Colli, all'interno della decima rassegna Il Vento del Nord a Lampedusa dal 26 luglio al 4 agosto. Giovanni, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio Federico. Ciao e buon Ciao ciao. lavoro.